brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Scusa, ma sto in questo momento pubblicando su Facebook il tema di oggi e lo faccio con grande piacere e grande soddisfazione. Ve lo leggo in diretta, fresco fresco, l'ho appena scritto, adesso in questo momento l'ho pubblicato. Oggi ho scritto: forza aspiranti scrittori, faremo felice qualcuno di voi. Ma lo dico con cognizione di causa, questa è la grande settimana in cui Melog si trasferirà al Lingotto, al Salone del Libro a Torino. Lo abbiamo già fatto l'anno scorso, è bello, carino, avremo un meraviglioso palcoscenico stand al centro della Fiera del Libro, in mezzo a tutti gli editori, gli aspiranti scrittori, i topi di biblioteca, le tope di sottoscala, staremo tutti lì insieme, respireremo l'aria della cultura, tutti gireranno con il loro libro in mano, ci saranno i grandi autori, meravigliosi e importantissimi scrittori, i saggisti, le scrittrici, i maledetti, gli aspiranti scrittori, e proprio su questi ultimi noi faremo un'operazione molto interessante. Non vi posso dire nulla in termini di precisione perché è un accordo in corso di definizione, ma se l'accordo sarà definito vi posso soltanto anticipare che 5 di voi aspiranti che avete mandato le vostre opere prime, il vostro sogno proibito nel cassetto, ciò che voi vorreste regalare all'umanità della profonda spremitura della vostra anima, 5 di voi passeranno un'estate felice. Cosa vuol dire questo? Vuol dire questo che nonne, zie, parenti, nipotini saranno felici di avere il loro parente scrittore. Potrete presentare il vostro libro, potrete darne delle copie ai vostri amici, farete delle meravigliose presentazioni assieme ai vostri parenti con il barbecue, ma se avete qualche minima entratura nel vostro agglomerato urbano, nel vostro paese, nel vostro quartiere, nella vostra città, nel vostro borgo, potrete organizzare una presentazione in parrocchia, una presentazione al circo Arci, una presentazione alla biblioteca della città, ma andando in su anche di più potrete ambire che al fatto che una libreria presenti il vostro libro. 5 di voi potranno fare questo. Come? Come non ve lo posso dire, ma state sicuri che la cosa ci sarà. 800240024, oggi continuiamo a dedicare la nostra puntata agli aspiranti scrittori. Ci racconterete il vostro libro, ci racconterete il vostro peccatuccio creativo, ci racconterete quello che avete nel vostro cassetto, molti me l'hanno già mandato. Ho la scrivania ingombra di manoscritti, mi sento improvvisamente come l'editor di una grande casa editrice, io che non leggo mai libri, sfoglio l'indice, do una letta così e poi ne parlo come se l'avessi letto. Io sono un cialtrone dal punto di vista dell'industria culturale, quindi in questo momento mi fate sentire importanti. 800240024, mandate. E ricordate una cosa, parleremo oggi di questa possibilità, vi daremo nel corso della settimana informazioni. Giovedì e venerdì parleremo dal Salone del Libro, in particolare venerdì mattina daremo la cinquina dei vincitori di questa fantomatica occasione, e venerdì sera sarà una grande trasmissione di Melog alle 21 che naturalmente darà onore, gloria, sottoscrizione e visibilità a coloro che hanno vinto. Mi raccomando però, fatemi una gentilezza, telefonateci, mandatecelo via mail, non ci spedite cartaccia perché è un peccato che poi la riciclano qui, la usano come tovaglietta per mangiarci i panini con la mortadella sopra. Ho scritto un libro di micro racconti fatti di fotografie e parole, perché di fatto la mia principale passione è la fotografia. 3 anni fa ho cominciato a scrivere questo genere riflessivo, pensando a parecchie cose che mi capitavano con i figli o in ambito anche lavorativo, per darmi tutto quello che mi dava emozione positiva e negativa, la tramutavo in scritto. Sono delle storie per ragazzi, la prima è ambientata all'Alhambra di Granada e ha dei protagonisti, i gatti come protagonisti, sono gatti comuni agli occhi dei turisti, ma in realtà mantengono vive delle tradizioni che altrimenti sarebbero andate perdute. Praticamente le dico come comincia, è ambientato in un paese della provincia di Catania dove c'è un personaggio che io qualifico come mia suocera, insomma, nell'avvio del racconto, che ogni sera al termine che vede sempre gli stessi programmi televisivi, è come se da 40 anni vede sempre lo stesso programma, no? A un certo punto, mentre va a letto, saluta la foto del marito morto che è su uno sparecchiatavolo dove c'è una pantera Art Deco degli anni 20, e a un certo punto si accorge che la pantera lacrima sangue. Avete visto, questa è la prova provata che già una semplice telefonata fatta alla radio con il cuoricino palpitante di speranza è stata trasformata in uno spot, è stata trasformata in un messaggio che dovrebbe incitare altri a fare quello che avete già fatto voi. Quindi già esistete, già siete uscite dall'anonimato, già il piccolo sogno impossibile e proibito di lasciare traccia del proprio passaggio in questa avventura terrena per qualcuno si sta realizzando, ma per 5 di voi in particolare sarà realizzato in maniera concreta. Avrete il gioioso e lussuroso pacchetto a vostra disposizione, con dentro tutta la possibile spremuta della vostra vita, la vostra creatività, di ciò che vorrete essere e vorrete raccontare al mondo di essere stati. Come ad esempio potrebbe accadere questo a Giampaolo. Giampaolo, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Covi anche te nel tuo cuoricino la speranza di scrivere il tuo libro? È una grandissima speranza, una speranza che poi si è concretizzata quando mi sono messo a scrivere, chiaramente, perché all'inizio era soltanto un sogno, quello di poter lasciare una piccola traccia. Allora, il tema mi sembra un tema divertente, rilassante e stuzzicante. Di cosa parlerai nel tuo libro? Allora, guarda, il tema in realtà è un tema drammatico, nel senso che io parlo del coma, quindi parlo di un incidente che causa appunto il coma a un ragazzo, Luca, che si è trasferito dal sud al nord. Magari cambiare il nome del protagonista, no, se dovesse vincere. va bene, ci proverò, ok. Sì. Però comunque considera che è molto bello perché poi racconto il risveglio di questa persona e racconto tutte le emozioni di appunto questo ragazzo mentre sta dormendo. E la storia, insomma, non voglio raccontare il finale, ma è una grandissima occasione anche per riscoprire se stesso, per recuperare alcuni ricordi. Quindi lui ha un coma cosciente, lucido, lui nel coma vede il mondo all'esterno oppure è isolato in una sua realtà parallela? No, lui è isolato nella sua realtà parallela, però quello che è particolare, lui riscopre che per risvegliarsi e quindi per risvegliare i suoi sensi deve recuperare la memoria dei sensi, quindi ogni capitolo si apre con un senso, dall'olfatto fino alla vista e ogni volta appunto da questo ricordo legato a un profumo recupera tutta una serie di elementi che fanno appunto risvegliare quel senso, quindi finché poi appunto l'ultimo ricordo che è legato alla vista fa aprire gli occhi e vede la luce, quindi rivede la luce e quindi ritorna, ma il Luca di prima non sarà e non è certamente il Luca del dopo questa brutta esperienza che in realtà appunto... Ma no, è stata bella, un'esperienza, una palingenesi, una rinascita, un riacquistare sensorialmente il proprio universo, quindi potrebbe essere una buona idea, poi ci sarà naturalmente chi giudicherà con strumenti tecnici più attenti e più sicuramente collaudati dei miei. Luca, sentiamo Luca, Luca non quello risvegliato dal coma ma un altro Luca, questa mattina c'è un'inflazione. Luca, cosa proponi? Allora, io propongo un libro che si chiama appunto Caduti nella rete, che narra le vicissitudini di un contabile anonimo che abita nella periferia romana, che una sera, diciamo, vagando su internet fa l'incontro della sua vita. Il problema è che questa donna sta al di là dell'oceano, è una donna bellissima brasiliana. E perché dovrebbe avere vaghezza per questo ragioniere della periferia romana? Perché questo, diciamo il mezzo, cioè il web, dà la possibilità di una trasfigurazione. Ah, perché lui millanta di essere chissà chi. Chiaramente. Ah, ecco. È sul blef. Sì, il problema è che poi questa cosa diventa, diciamo, reale e quindi lui è sempre in bilico tra il mantenere la sua rappresentazione fittizia. Non ha il coraggio di farsi vedere nella sua miserrima condizione umana da questa brasiliana bellissima? No, il coraggio lo troverà, solo che poi sarà costretto, come dire, a viaggiare sempre su due canoni esistenziali. E cioè poi magari anche la brasiliana mostrerà la sua sorpresa, perché probabilmente ci saranno anche naturalmente degli strascichi sicuramente piccanti in questo romanzo. Ti auguro naturalmente di arrivare anche te nella cinquina finale. Io mi astengo da ogni giudizio perché devo essere imparziale e vi ribadisco ancora di più la necessità di chiamare all'800240024, perché queste occasioni nella vita passano soltanto una volta. Io? Mai scritto niente, per carità. Oggi sono più quelli che scrivono di quelli che leggono. Sì, sì, dite tutti così, ma non è vero. Anche voi scrivete e sognate. Lo sappiamo benissimo che da qualche parte nel vostro PC, nella cartella foto vacanze, conservate un insospettabile documento di Word, un file che di tanto in tanto riaprite e aggiornate, rileggete, modificate e poi salvate. Sappiamo anche che per proteggerlo da sguardi indiscreti non l'avete nominato mioromanzo.doc, ma ricetta nonna, lista spesa, infotreni. Bene, oggi non dovete nascondere niente, dovete uscire allo scoperto. È il vostro giorno. Anonimi scribacchiatori, oscuri romanzieri picchiatasti, incompresi poeti fai da te, estensori di memorie autobiografiche, panterate autrici di diari sessual gastronomici, disperati letterofili senza raccomandazione. È arrivato il vostro momento. Chi di voi, telefonando in diretta a Melog, riuscirà a convincerci della validità del proprio progetto editoriale? Chi saprà sorprenderci e sedurci avrà diritto di giocarsi la grande occasione della sua vita al Salone del Libro di Torino. Noi di Melog ci impegniamo a portare la sua proposta a un editore presente al Salone del Libro di Torino. Per una volta tanto, non scherziamo. Ora tocca a voi. Non avete alibi. Il vostro futuro artistico è nella vostra voce. Chiamateci e convinceteci. 800 24 00 24. E pensate che questo spot, coniato, pensato, amorevolmente prodotto soltanto pochi giorni fa, già è vecchio. Domani già dovremmo cambiarlo. Se si perfezionerà l'accordo dei tanti, abbiamo scoperto che fra i tanti ascoltatori ci sono dei melogmani che hanno le mani in pasta comunque nella stampa, nell'editoria, nella pubblicazione, insomma sono addetti ai lavori, e c'è una sorta di corsa agli ostacoli per chi vuole mettere il suo nome, apporre il suo marchio al culmine di questa nostra gara. Quindi stiamo mettendoci d'accordo con le 3 o 4, 5, 6, 7, 8, 10 offerte che abbiamo più vantaggiose per riuscire a gratificarvi il più possibile, per rendervi felici. Ma vi assicuro, non sto menando il camper l'aia, domani saprete, perché spero i nostri validi colleghi del marketing riescano velocemente a fare questo accordo, quanti di voi passeranno un'estate felice. Voi pensate, il Ferragosto a presentare il proprio libro alla Sagra dell'Arrosticino, ma pensate che meraviglia, oppure che ne so, sarete contesi dai salotti più importanti del vostro villaggio vacanze, l'animatore vi chiamerà e vi porterà davanti alla piscina con il libro in mano, lo potete portare dietro, avrete valigie e valigie di libri che vi seguiranno in ogni momento. Pensate soprattutto anche all'aspetto relazionale. Ma volete mettere, uscire una sera con distrattamente sotto braccio il vostro libro e dirà: scusa cara, ho appena portato il mio libro, e probabilmente si dischiude un paradiso di attesa, di palpitazione. Volete mettere voi, siete sempre stata considerata una sciocca senza cervello, una donna che fa leva soltanto sulla propria avvenenza fisica. Tirate fuori distrattamente la vostra borsetta firmata, comprata dal marocchino lungo la strada, il vostro libro. E improvvisamente vi si aprirà una compagine di intellettuali con le giacchettine con le pezze sui gomiti, con le Clark scalcagnate, con i pantaloni velluto anche ad agosto, con quelle belle basette forforose, con quella bella puzza d'ascella addosso che tanto funzionano e tanto hanno peso nei salotti delle capitali italiane. E quindi anche voi entrerete a far parte come le Bignardi, come le Pulsatille e come tutte queste signore del grande giro delle donne che pensano e che hanno anche una testa. Piera, eccomi. È allettata da questa prospettiva, vero? Beh, sempre si è allettati da qualcosa di nuovo, di particolare. Allora si butti. Allora mi butto. Io ho scritto 3 commedie, io ho sempre scritto anche da ragazza. Poi quando ho smesso di lavorare ho deciso di fare teatro. Sintesi, cosa ha fatto? Sintesi. Ho centinaia di persone al telefono. Allora, ho scritto 3 commedie che mi piacerebbe pubblicare. Di che genere? Del genere brillante, commedia brillante, sono delle persone. Genere fescennino, lievemente scurrile, no? No, assolutamente no, però direi, no, perché funzionerebbe. Può essere anche divertente, insomma, delle persone, delle signore di mezza età che decidono, che passano la vita insieme. Ad esempio, questo si chiama 4, il numero perfetto, è la prima commedia che ho scritto, e che desiderano di avere un ultimo amore, e ne passano un po' di tutti i colori. Ah, bellissimo. Con un L'ultima botta delle pantere grigie, questo è il titolo. Com'è? L'ultima botta delle pantere grigie. No, non è quello. Inizierò con un sogno proibito di un uomo nudo seduto sul divano, che poi questa persona viene incontrata, che è il cugino. Insomma, ci sono un po' di cose che sono. No, mi sembra che l'attacco sia buono. Vada un po' avanti un attimo. Ecco, sogna un uomo nudo, tutte e quattro lo stesso sogno. No, una sogna un uomo nudo che poi dopo poco arriva. Indecentemente nudo o. Diciamo, no, direi un nudo seduto, direi abbastanza fermo. Però, quindi non si intravede se c'è una partecipazione. Non si emotiva. Intravede, però si potrebbe supporre. Bene. E così cominciano, poi ci sono, c'è un furto, ci sono, c'è, il polizi, c'è un poliziotto, c'è uno che si finge innamorato di una per prenderle i soldi, insomma è tutta una cosa di questo tipo. Però alla fine tutti vogliono fare una vacanza da sole, separate, per avere nuova linfa, avere nuove avventure, e purtroppo si succede di tutti i colori, perché una trova uno che gli piace moltissimo, poi questo è un gay, insomma poi Lo so, c'è questo problema. Decidono, cioè, che l'amicizia forse è l'unico valore della vita. Quindi c'è diciamo una sorta di finale consolatorio, c'è un passo indietro di fronte. Si parte l'uomo nudo sul divano, si finisce, andiamoci a fare una gita in crociera fra amiche. L'amicizia sia veramente l'unico valore vero di un'amicizia. Benissimo, perfetto, Piero, molto chiaro. Alberto Castelvecchi, prima raffica, fondatore edizione Castelvecchi, agente letterario, lavoro al nuovo progetto editoriale Alberti Castelvecchi. Abbiamo deciso che, non so perché, per quale ragione, per quale motivo, oggi sarai, come sei stato in passato e lo sarai fino alla fine, il nostro giudice. In particolare, cosa ne dici di questa prima raffica di aspiranti? Allora, il primo Luca, quello del coma per intenderci, del libro sul coma, mi darebbe da dire che c'è lo spunto ma non c'è la storia, cioè l'idea di base c'è, questa idea di un signore che va in coma e si risveglia dal coma, potrebbe proprio intitolarsi Coma o giù di lì, un libro del genere. Però a me, se mi dicono c'è un libro sul coma, dico bene, e poi che cosa succede? Fai succedere qualcosa di interessante. Da lì questo signore se ne parte con tutta una tabella classificatoria sui sensi, prima l'udito, poi la vista, cioè si vede che è troppo cerebrale. Perché sia non Tarantino che Almodovar, almeno qualcosa sono inventati che succede durante questo coma. Ecco, allora, infatti quello è il punto. Oggi il pubblico ha bisogno, come sempre, fin dai tempi dei Premi Medici, di emozioni, di una storia particolare. Quindi c'è lo spunto, ma non c'è la storia. Nel secondo caso, la storia del contabile di periferia romano che rimorchia la brasiliana su internet fingendosi qualche cos'altro, c'è la storia ma non c'è l'idea, non c'è lo spunto. È un po' déjà vu poi questa storia, un po' già visto. La storia c'è e l'abbiamo sentita, però Gianluca è dal 93 che io mi occupo di internet e una trama più o meno simile mi è stata proposta almeno 50 sempre. Volte da 50 romanzieri. E perché dico che l'idea non c'è? Perché è un'idea vecchia. Oggi quello che è vincente non è più il fingersi qualcun altro su internet, ma l'autenticità. Esattamente. Un esperto americano dice la killer application, cioè la cosa vincente è l'autenticità. Ero più contento se era un contabile romano vero che si fingeva, che ne so, pure un po' burino e rimorchiava magari una miliardaria brasiliana. E lì c'era un'altra cosa. Il fingersi qualcun altro non funziona. Per quello che riguarda le commedie della nostra ascoltatrice, che io chiamerei il trionfo della tardona più che l'ultima botta delle pantere grigie come da te è segnalato, dunque anche in questo caso le donne oggi, anche in un'età molto più avanzata, hanno una vita sessuale e sentimentale molto più interessante del sognare uomini nudi sui divani. La conclusione sull'amicizia mi sembra un po' un Desperate Housewives di altri. C'è questa rassegnazione che è tristissima. Capito, l'amicizia è l'unico valore. No, non è vero, anche l'amore, anche la vita sessuale. Oggi. Ma poi l'amicizia, ragazzi, Alberto, tu ne sai qualcosa, ci vogliamo prendere in giro. Io sono un anziano 48enne. Sì, no, dico sull'amicizia, sul valore dell'amicizia. Io devo dire che in momenti difficili della mia vita mi sono rimasti solo gli amici, però anche ho trovato molte amicizie sentimentali e non solo nelle donne. Oggi una donna a 55 anni può avere ancora una storia sentimentale, sessuale, ricchissima, senza bisogno di fare questo sogno un po' pipparolo di sognare le persone nude sui divani. Di là da questo, come editore di libri... Che poi è un cugino, capito? Tutto in famiglia. Ecco, le commedie si mettono in scena. Cioè, le commedie vanno rappresentate, quindi non vedo una cosa di questo genere adatta a fare un libro. Poi, se lo spettacolo ha un enorme successo, allora si fa avanti un editore. Melog 2.0. Chi di voi, telefonando in diretta a Melog, riuscirà a convincerci della validità del proprio progetto editoriale, chi saprà sorprenderci e sedurci, avrà diritto di giocarsi la grande occasione della sua vita al Salone del Libro di Torino. Noi di Melog ci impegniamo a portare la sua proposta a un editore presente al Salone del Libro di Torino. Per una volta tanto, non scherziamo. Ora tocca a voi. Non avete alibi. Il vostro futuro artistico è nella vostra voce. Chiamateci e convinceteci. 800 24 00 24. Divertente che un'ascoltatrice mi scrive su Facebook: ma la giuria che selezionerà i libri che porterete a Torino, chi è composta? Ma non lo so, andrò in giro a cercare qualche alcolizzato amico mio. Poi c'è Intonti, il professor Chiappini. Non è un concorso questo, ma prendete le cose per il senso che hanno. Abbiamo deciso di dare libera espressione alla felicità di alcune persone di aver qualcuno che li sta a ascoltare sui loro componimenti, sui loro libri. Di questi poi alla fine qualcuno probabilmente riusciremo a fare in modo, farneticando, corrompendo, turlupinando, vendendo lucciole per lanterne, che sia contento. Ma è come se gli facessi un regalo mio, un regalo di Fabrizio Intonti, un regalo così. Non è una cosa seria, cioè nel senso, non è un concorso vero in cui qualcuno vince, c'è una giuria, c'è un premio. Abbiamo deciso che vi diamo il meraviglioso, estemporaneo e disastroso spazio che abbiamo a disposizione per esprimervi. Per noi è un importantissimo spaccato di quello che è la materia dell'immaginare, del sognare, del pensare vite alternative degli italiani. E per averci fatto così divertire, averci aiutato a riempire tante trasmissioni, vi daremo possibilità che voi siate felici, ve l'ho detto, alla Sagra dell'Arrosticino, nella festa del Santo Patrono o in altre grandi e meravigliose occasioni in cui avrete qualcosa di solido, avrete anche voi il vostro meraviglioso pacchetto dei sogni e dei desideri. Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Come mai sono uomini, non chiamano le donne oggi, a parte la signora delle... Sarà la prossima, mi auguro. Non lo so, vedo tutti uomini, ci ho scritti tutti uomini. Datevi da fare, signore, perché vorremmo una par condicio anche nell'attribuzione dell'ambitissimo pacchetto regalo. Comunque vediamo, avanti Raffaele. Allora, io ho scritto un poema... Lei è partito modesto come pretesa e quindi giustamente essere gratificato anche per la sua modestia. La ringrazio. Un poema sulla falsa riga, sulla metrica della Divina Commedia di Dante, quindi un poema in terzine tutto in rima, sono 12 canti. In endecasillabi sciolti. Sì. Che riguardano, che riguardano proprio un viaggio all'interno di se stesso e anche ovviamente all'interno del mondo che ci circonda. Volevo darle magari l'inizio. Sì, mi dia un assaggio, perché così capisco. Lo so a memoria. Beh. Allora le dico almeno l'inizio. Ecco. Nel guercio sfogliar del tratto, tra le simule dell'essere e le virtual delizie dell'uomo ratto, fui mercè di pugni e malie e nere vere cere, privo di molo nel vortice del plesso, esamine alla deriva di megere sere. Non ho mai corso presso, gioivo e soffrivo in alterno, non ponderavo, ideavo il riflesso. Persino su Dio non riuscivo a far perno, pareva essere una rocca di sabbia. Giusto contrappasso naturalmente, perché ha lambito il girone degli aspiranti dantisti la cui pena è prevista è la motosega, e quanto loro segano i nervi e la coscienza con il loro endecasillabo sciolto, tanto la motosega di Satanasso colpirà e taglierà i loro garretti impavidi. Stefano. Sì, pronto? Avanti. Allora, io ho scritto un libro autobiografico, è circa 11.000 giorni, praticamente non è la storia dell'uno su mille che ce la fa, ma dei 999 che spingono per farcela. La forma è carina perché è un susseguirsi di tre capitoli, diciamo, sigaretta, passeggiata e caffè, dove passeggiata in flash fotografici la mia vita. Sigaretta sono alcune riflessioni e caffè sono dei testi di canzoni che comunque hanno segnato il corso della mia vita. Purtroppo è un incompiuto, perché io farò 30 anni, che gli 11.000 giorni sono 30 anni, li farò il 17 aprile del prossimo anno. Però lei ha fatto l'orrendo minestrone di cui Castelvecchi faceva scempio, cioè ha messo insieme delle cose che aveva facendo lo zibaldone multigenere. Oddio, diciamo che è una cosa che mi piaceva, visto che ascoltavo, ho ascoltato tantissimi audiolibri, visto che faccio il rappresentante, quindi tempo di leggerli non li avevo, e nell'audiolibro c'era sempre questa parte di canzoncina, di musica. Che mille ce n'è, fine... come le favole, le audiofavole. Esatto, col cappottino rosso. È parte della vita ora della fine. Va bene, quindi... grazie. Marcello, sentiamo. Prego. Marcello. Ciao, ciao Gianluca. Io in pratica non è un romanzo, non è una commedia, ma è un viaggio nell'MRC, cioè il titolo è 2001-2010, non crisi ma boom economico. In pratica sono stato spinto dalla curiosità di capire perché io sono un commerciante. Ma è un saggio di economia? Sì, è un fatto di economia, ma racconta del viaggio delle merci in pratica, che pur le materie, insomma, stanno, il costo delle materie sta scendendo, le materie prime costano di meno, non di più, però sui nostri scaffali voi, diciamo, consumatori, pagate semplicemente il 200% in più. Vabbè, ho capito, è un romanzo di fanteconomia, chiamiamolo così, alle o alle? Alle. Io vedo, cos'è un diminutivo? Sì, praticamente è il nome d'arte dello studio, è un diminutivo di Alessandro comunque. Ah, perché con due L? Perché per carenze bisogna sempre cercare di compensare in lunghezza. Un L in più ci sta sempre bene, no, sembra esatto. Allegria potrebbe essere, va bene. È una delle poche cose che ancora in Italia non ci fanno pagare, allora le L abbondiamo, avanti. Esatto. Niente, noi abbiamo scritto in 20 anni di studio tutte le piccole affermazioni, gli strafalcioni dati un po' dalla tensione della gente mentre si sta facendo un tatuaggio. E niente, praticamente parlano di piccole... Vi faccio un esempio. Un esempio stupido anche di sabato, è entrato un ragazzo e ha chiesto: guarda, io volevo fare una N, però la volevo fare in inglese, me la puoi disegnare? E io: come una N in inglese? Un N, ma la N è N. No, no, ma io la volevo in inglese. Allora gli ho fatto un N normale e mi fa, così. Questo, perfetto. Allora, diciamo, domande astruse nel gabinetto di un tatuatore. Esatto, l'altro giorno una ragazza mi ha chiesto se gli potevo fare, ovviamente con un accento molto particolare, mi ha chiesto: Alessà, ma me la riesce a fare una Madonna giapponese? Una Madonna giapponese dove la voleva? Ma il problema non è che sapere come è fatta una Madonna giapponese, oppure un folletto Maori, tutte quelle cose che la gente che vuole gli alfabeti Maori sono tutte. Sì, vanno molto, ma i Maori fanno le scarnificazioni, si mettono l'argilla sotto pelle, fanno quei bei pallini in rilievo, è un lavoretto. Un lavoretto di cesello e di bisturi, va bene, grazie. Oh, Francesca, cosa ha scritto? Sì, ecco una donna. Buongiorno. Perché secondo lei, Francesca, questa mattina c'è una carenza di aspirazioni di aspiratrici femminili? Beh, non lo so, spesso abbiamo delle cose nel cassetto, anch'io non sapevo se chiamare o meno, probabilmente ci sono, ascoltano ma non hanno il coraggio, perché sono faccio un appello alle sue colleghe di tirare fuori il coraggio, tirare fuori dal cassetto, lo faccia lei che magari fra donne vi ascoltate di più, faccia la gentilezza. Proviamoci. Non si rivolga proprio direttamente, voi no. Melogmani in ascolto. Voi che come me create, perché noi creiamo di continuo ogni giorno, io sono mamma di 4 figlie. Sì. Quello è procreare, però non è creare. Creiamo e procreiamo. Francesca, quello è procreare. È un'altra cosa. Ma è anche creare. Non viviamo se non lo facciamo, almeno questo è il mio caso. Però spesso rimane tutto circoscritto a noi. E ma create in maniera scranzata, che magari è più divertente. Sì, anche, ma io le figlie, dopo averle procreate, con loro creo in continuazione, in maniera scranzata. Faccia l'appello, così se no devo segarla. Ah no, scrive, telefonate, perché può darsi che un sogno diventi realtà, io non ci credo quasi più, però ho detto stamani provo, fatelo anche voi, magari il mio no, ma il vostro si realizza. Lei l'ha detto il suo, non l'ha detto ancora? Sì, io ho questo racconto che ho scritto da un po' di tempo, proprio perché ho queste 4 figlie di età diverse, ho visto che loro sono stufe delle solite storie e sono molto più intelligenti di noi, non si accontentano più della principessa, del principe, del bacio e del risveglio, fanno domande esistenziali importanti. Tipo una domanda. Tipo, che cos'è la morte, che cosa c'è dopo la morte, che cos'è il razzismo, che cos'è la diversità. Lei cosa risponde cosa c'è dopo la morte? No, mi incuriosisce. io tento di rispondere, cerco sempre di capire loro se già hanno in embrione una risposta nella loro testa, perché ne ho quattro e tutte e quattro sono diverse. Una è religiosa, l'altra no, una addirittura mi ha chiesto di diventare buddista. Beh, ogni volta devo cercare di accompagnarle in un cammino. Cioè, io mi sono sempre detta, un domani non voglio che mi assomiglino, devo vedere in ognuna la propria specifica identità. Ne sarà totalmente assorbita, anzi prosciugata, anzi disossata da queste quattro figlie multietniche, policulturali, però questa è la giusta avventura della sua vita, quindi le sono grato per averci chiamato, per aver appellato. 800 24 00 24. Tra un istante con Alberto Castelvecchi, dopo le informazioni del traffico, daremo il terrificante giudizio su quelli che hanno telefonato. Melog 2.0 800 24 00 24. Stiamo districandoci con grande fatica ma con grande lussura nell'universo degli aspiranti scrittori italiani. Ho chiamato a raccolta le femmine ascoltatrici, quindi mi hanno risposto immancabilmente. Giulia, buongiorno. Sì, ciao, io scrivo un po', penso come facciano tanti, raccolte di poesie, lettere, a me piacciono, ti dirò, le mie cose, perché sono semplicissime, però rispecchiano delle emozioni che penso che tanti possano ritrovare. Te la senti di affrontare la prova della motosega e leggerne una qui alla radio? Guarda, so che è dura, però se vuoi ti do questa possibilità. Vabbè, proviamo. Tutti vicini al tavolo di un ristorante, parlarsi senza parole, sfiorarsi le dita, piccole carezze che scivolano sotto la pelle, un'intesa morbida, sottile, profonda, speciale, nostra. Seduti al tavolo di un ristorante, un intimo piacere da godere insieme. Grande il desiderio di abbracciarti, subito. Acqua? Sì, certo, gasata. Vabbè, vedi, sei riuscita a passare indenne. T'è andata bene, già non un buon punto. Gatta. No, sei contenta? Benissimo, certo. Va bene, ti sei risparmiata i garretti. Annabella. Sì. Avanti. Sì, Melog, buongiorno. Buongiorno, sto aspettando. Sì, sto aspettando anch'io. E dico, donne fatevi avanti. Ecco, io sono una donna, mi sono fatta avanti. E cosa allora, hai scritto? Io scrivo favole per bambini. Che mando... Beh, favole per vecchi sarebbe un po'... No, favole per bambini, ma la storia è bella perché io le scrivo qui in Italia, le mando a mia sorella in Inghilterra, lei le traduce e le fa pubblicare in inglese e perciò uso tantissima fantasia perché devo immaginare i paesaggi. Ah, quindi il mercato anglosassone accetta la tua fatica letteraria, in Italia non trovi editori? No, ma non me ne importa più di tanto. No, vorrei vedere, sei fortunata. Lo abbiamo in beneficenza, perciò va benissimo lo stesso. Hai un mercato internazionale a disposizione. Allora, una cosa dell'altro mondo. Poi ho l'altra passione su un giornale importantissimo italiano, in una rubrica in internet a puntate racconto la storia dei miei 61 cani. Io ho avuto 61 cani in vita mia. Ma tutti assieme o sparpagliati nella vita? Assieme un minimo sempre 5 o 6. Poi c'è stata la stagione... Vabbè, sembra un bel romanzo del genere un po' forte, però sì, potrebbe funzionare. Bello, ma poi la storia... Annabella che ha avuto 6 cani insieme, però 61 in tutta... Annabella ha avuto 25 maremmani insieme, cuccioli, cuccioloni, nonna, mamma, babbo, papà e tutto. Vabbè, un'esperienza invidiabile. Grazie bella, Annabella. Sì. Marco, poi sentiamo Alberto Castelvecchi. Marco, concludiamo con lei. Pronto, cosa è scritto? Sì. De Luca, senta, io ho scritto un racconto umoristico satirico che si intitola Ragioniere Esposito Chisciotte. Questo Chisciotte ha i suoi mulini a vento nel traffico romano, è ambientato a Roma, nel traffico romano, nelle file alle poste, nelle code dei vari uffici delle burocrazie romane. E la parte umoristica e satirica sta nel fatto che lui chiede per essere risarcito dello stress e del danno biologico che subisce tutti i giorni per trasferirsi da Roma Nord a Roma Sud, dove invece lavora, fa causa al sindaco, il quale cerca di ammanzirlo chiedendogli 200.000 euro, cerca di ammanzirlo proponendogli 30.000, lui non accetta, l'avvocato gli suggerisce di fare degli articoli sulla stampa. E come va a finire? Va a finire che lui diventa un personaggio, un famoso a Roma, perché lo vedono in televisione, nei telegiornali. Ah, perfetto, compreso. Rossana, c'è ancora Rossana? Dai, certo Rossana. Che c'è Rossana. Pronto, piacere di conoscerla. Dunque, io ho scritto 110 poesie, mai riuscita a pubblicarne, e ho finalmente completato il romanzo, che si titola Una storia come tante. e racconta di un paio d'anni di vita con un breve cenno introduttivo all'infanzia molto felice, un paio d'anni di vita che poi hanno causato cambiamenti irreversibili. Con chi questi due anni di vita? Divisi con chi? No, non divisi, di vita, anni trascorsi da me, per cui per un incidente amoroso, chiamiamolo così, sì. Ecco, sono stati causa di grandi cambiamenti, di grande dolore, di sofferenza, ma non straordinariamente grave, non si parla di malattia. Normali pene d'amore, quelle che tutti abbiamo nella vita, a cui nessuno dà un grande peso, a quelle altrui. Alberto Castelvecchi, dunque, hai una bella raffica di roba. Il dantista si è motosegato da solo. Dante è stato non solo in tempi moderni ma in tempi antichi l'autore più difficile al mondo da imitare. Il suggerimento che si vorrebbe dare a chi vuole scrivere un poema, magari in terzine, è di provare a raccontare delle storie attraverso questo poema invece di perdersi appunto in giochi di parole. E poi se uno scrive poesia oggi gli suggerirei più di guardare allo stile di Edoardo Sanguinetti che non allo stile di Dante Alighieri, nel senso che sono passati qualche cosa come 600 anni, per cui non si può scrivere, ci si può ispirare a Dante se si vuole narrare in poesia, ma bisogna trovare uno stile più contemporaneo. Suggerirei a questo nostro amico di leggere La camera da letto di Attilio Bertolucci, che è uno straordinario poema narrativo, però scritto in un linguaggio contemporaneo. Del secondo ascoltatore, quello che ha scritto lo Zibaldone, è per scrivere Zibaldoni bisogna essere come Leopardi, cioè sfigati ma geniali. Lui sinceramente la non è geniale, qualità, quindi va bene. La seconda qualità, ecco. Il saggio di Fantaeconomia, più che capire perché si pagano il 200% in più, come dire, le merci, che mi sembra si chiama ricarico, lo sa la Confcommercio, bisognerebbe capire perché certi appartamenti si pagano il 200% in meno se si appartiene, non so, a elette schiere di cittadini. Ora ovviamente manca di attualità, quindi manca di attualità. Dopodiché una nostra ascoltatrice ha scritto poesie e lettere, questa cosa, siamo seduti al ristorante, io ti tocco, tu mi tocchi, un momento di gioia, eccetera, eccetera. Mi sembrava, non so, abbiamo un solo grande poeta in questo genere, banal mellifo, sono le poesie che scrive tipo Maurizio Costanzo, quelle cose lì. Proporrei appunto di spedirle al Costanzo Show, che forse è più... Che non c'è più, infatti, poraccio, rimarranno in uno scatolone. C'era un grande in questo genere deposito, che era Romano Battaglia. Romano Battaglia scriveva queste poesie del tipo io ti guardo, i nostri occhi si perdono gli uni negli altri, l'azzurro del cielo non ti eguaglia e tu sei qui con me. Insomma, si potrebbe andare avanti, no? Sì, per, certo. Poi, dunque, le favole, complimenti alla nostra ascoltatrice che riesce a pubblicare in Inghilterra, quindi è riuscita a fare il salto che ha il 99% dei nostri scrittori pubblicati non riesce a fare. Infatti ha svoltato, glielo ho già detto. Lei. Appunto, non ha proprio bisogno di noi. L'autore di Satira, la trovo un po' devastante la storia di quello che chiede risarcimento. Ma perché sempre ragionieri? Fantozzi ha ormai ispirato un po' troppo, tutti si vedono ragionieri e raccontano storie di ragionieri. E poi voglio dire, Fantozzi era molto più figo, Fantozzi non sarebbe mai venuto in mente di chiedere, anzi se Fantozzi avesse chiesto dei soldi al sindaco, il sindaco gli avrebbe detto te li do però poi facciamo a metà, cioè gli avrebbe proposto una cosa, tu ti ricordi i biglietti da visita dei potenti, no? In Paolo certo. Villaggio, Gran Cavalier Loup Mannar, ecco, invece qui va tutto troppo bene. Alla nostra ascoltatrice che ha parlato per ultimo, suggerirei di, se bisogna intitolare un romanzo a presentarsi a un editore, evitare un titolo del tipo Una storia come tante, perché l'editore si alza e dice bene, grazie, arrivederci. Poi sempre di storie di delusioni d'amore, tutti le abbiamo avute, ma nessuno ha pensato che abbiano un carattere epico così narrabile a tutto il mondo. Grazie Alberto Castelvecchi, ci rivedremo senz'altro a Torino, dove sarai a imperversare per i tuoi libri, ma ruberemo parte del tuo tempo perché ormai ci sei indispensabile per portare alla fine questo sanguinoso certamene sulla capacità, la volontà, la velleità di scrivere i libri degli italiani. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.